da lì, guarda un po' come sto uscendo, che ho cambiato quella roba. Bene, stai uscendo bene. Va bene? Sì signore. KK, andà bene, dai. L'ho sistemato quel televisore, adesso glielo devo portare a coso, a questo di già, a Sant'Orso. E dopo passa che ti devo dare dei fogli. E vabbè, adesso ti va a portare questa roba che mi ha chiamato perché dicevi Borgente. È stato un casino, ho avuto smontare, c'è un film. E vabbè, e comunque l'ho risolto, dai, va benissimo, funziona bene, l'ho provato qua. E va alla grande praticamente, capito? Dica, amico, così. Adesso me lo carico e glielo porto giù. Capagava. Un casino. Mi stavo cambiando le casse nella macchina. Ne ho cambiato una. Devo cambiare anche l'altra, però adesso sta per imbrunire, non fa. Sto piazzando la X30 io. Oh, prepara tutto, capito? Vabbè, adesso come va questo microfono, gaba gaba? Benissimo. Vedi che adesso non manca più, ce l'ho a due, mi. Quindi esce bene, va bene quel potenziometro. Ecco, io gliel'ho piazzato, ho visto che sta funzionando, se non si rovina di nuovo. Infatti, anda bene meglio. E anche la manopola va bene, almeno non ti metti a premere, capito, lo avvitti direttamente. E infatti, adesso mi piazzo così in quel pezzo di tubo che va all'antenna, mi piazzo i cavallotti, tutto, arma che è pronta. E qua gli ho cambiato lo smitter, vedo un po' questa, se va bene con l'altra. Ora, già va bene, dai. Claudio, attenzione Claudio. Che resta in silenzio e ascoltiamo tutto agli inquirenti. Illuminato di verde, lo lascio così, capito? Ehi, ti ha sovramodulato l'R0 poco fa. A chi? A te. R0. Che cos'è che c'è R0? Ehi, lo so che io. Ma magava? E vabbè, io sto scendo basso. No, non aumento. Lo lascio così adesso, capito? Poi appena che piazzo le antenne su, capito? Bisogna informarsi, intanto adesso quegli esami lì li danno a ottobre, ho sentito, capito? Ad aprile dovrebbero essere, capito? Quindi bisogna fare tutta la documentazione e spedire direttamente, capito? Prima del 30 aprile bisogna che arrivi. E prima del 30 aprile bisogna spedire la domanda, capito? Così ti dicono quando ci dobbiamo prenotare. Cava. Cava. Adesso dopo controllo quella chiavetta lì. Perché io stavo seguendo un altro tipo di scuola, capito, direttamente, sempre da YouTube, ed è molto bravo questo qua, è un ingegnere di elettronica di Zaunberg, che è un cranio. Dovrebbero fucilare a un lato loro. E adesso oggi non ce l'ho fatta a fare dei quiz, però adesso più tardi mi metto e mi faccio un altro po' di quiz e vediamo un po' quanti errori faccio. L'altra volta su 60 ne ho fatto 20. È sbagliato fare i quiz, prima devi studiare. I quiz non li devi giocare. Vedi, amatori passando, sto seguendo quell'altro, capito? 60 domande e 20, poi ne ho fatto, su 10 ne ho sbagliato una e buh. E vabbè, ma quiz non mi va. Quello lì adesso non farmi quiz perché non segui le lezioni. Vabbè, ma io ho voluto provare, dai, giusto per... vabbè, una volta che si segue la lezione poi anche più facile. È più facile pure per i quiz, capito, Natalino? Non ci stanno problemi, gabagabè. Sembra bene, sta andando questa radio, sì? Eia, te lo faccio sentire quel microfono che ho piazzato. Prova, fammi sentire, riesci a vedere? Aspetta un attimo che era attenuato, ecco perché va a San Napoli. Prova! Qua, questo è il microfono normale. E già va bene, dai. Vabbè, modulazione normale, non è come l'altro, però già diciamo che va benissimo. E l'impulsante che andia bene. Aspetta un attimo, a me, per forza. Hola. E il microfono normale, Natalino, non c'è preapplicazione, ma va bene. Radio normalissima, capito? Che sì, l'importante è che sia 5, dai. Oh, la radio è buona, te la dico. Chiaramente non è preamplificata, è una radio normale. Preamplificata è diversa, però va benissimo. Sì, infatti. Cava. È tutto cava, no? E poi, Fra, è un bel sensibile questo microfono, e tu che schiaccia subito, non ti stanca. Quella normale lo puoi usare tranquillamente. Ecco, ma ti volevo dire, ma quel microfono lì, com'è, uguale a quello del Keyboot? Uguale a quello dovrebbe essere. Ho capito, all'MC45, giusto? 42, 43, uguale a quelli. Kappa, ho capito, sì. Vabbè, comunque va bene, Natalino, niente da dire, capito. C'ha una bella modulazione. E la capsula sua originale c'è. E beh, la capsula non si può cambiare, di com'è, in ceramica? Di quelle piccoline, tipo microfono preamplificato, ci sono tre fili attaccati. Te stavo dicendo, ma io te l'ho data una di quelle capsule, perché non hai provato a mettergli quella? Natalino. Oia, chi è? Er Claudio, questo è il microfono. Eia. Bella modulazione. E la sua è... Aspetta che me lo tolgo, che metto l'altro, da. Si è impigliata la situazione. Ma questo è quello normale, ciao Fra. Ciao Fra, buonasera. Sì, no, cioè, te lo stavo dicendo. C'ha un'ottima modulazione. Io ho finito adesso il microfono, che quei trimmer che vede usare non servono a niente. Si è tutto spaccato, guarda. L'ho cambiata adesso, l'ho finita adesso il tuo microfono da tavolo. Ogni volta, neanche una due settimane l'ho cambiato. Di nuovo a rocco. Va bene, sì, va bene la radio, una bella radio normale, va benissimo. Spinge bene comunque quel microfono qua. KK, io ho finito adesso, mi ho riparato il televisore e ce l'ho dovuto portare a Sant'Orsola. E gli ho sistemato la scheda audio, capito? E gliel'ho portato. E vabbè. C'è Mario che stava tagliando le unghie al cane. Fammi sentire il microfono da Palmo, Natalia, io. Io non te l'ho fatto sentire. Era quello lì che stavo usando. Capito? E che tipo c'è? Il 508, Ma di mai c'è più forte che ce l'ha da Palmo che chi? E vai, cosa che ce l'ha a Palmo che chi? Ma non ci credi? Guarda, c'è una bella modulazione, bella forte. E non me ne sono manco accorto che hai cambiato. Comunque è forte la modulazione, bella, bella, bella, dai. Almeno c'è il microfono originale. Oh, io c'ho gente, non vi posso già, ci sentiamo dopo. Metti quello normale, Natalia, va benissimo, la grande. Va bene, Claudio, ce la ci ascolta dopo. Vai, Natalia. Ci sentiamo dopo, la gente entro dopo. Niente, dai, entro dopo, che c'ho gente. A dopo, ciao. Ciao, qua, ciao, ciao. L'altro stai piazzando, Natalia. Cosa? Ho detto, ma l'altro microfono stai mettendo. No, questo qui li lascio al vaccino. Quello lì è per avere l'originale solo. Questo è, lei ho capito, dai. Ma già va bene lo stesso. Ok. Oh, ragazzi, fanno male i piedi, guarda, per carità. Che bagarra, mio. Chiamato, c'è il vapore, non è scattava corrente, ma dimmi tu, non ne posso più. Cosa ci aveva? L'altro forno se gli è bloccato, stava facendo il panettone e gli scattava corrente, che è sua, è una cosa incredibile. Che cosa aveva praticamente? Praticamente c'aveva un filo della, del coso, della resistenza che stava, stava schicchiando sulla carcassa, è andata in deratazione, si è spaccata la staffa e toccava sulla carcassa e quindi si soltava tutto. Cazzo, tre giri a vedere, non mi sono fermato, ma neanche riposato mi sono oggi. Vabbè, adesso mi ha detto, dice domani passa che ti do il panettone per Natale, e io ho detto vabbè dai, se me lo ricordo già passo. Quei panettoni che fa lui. Ah, io ho capito. Vabbè, passo e vuol dire che faccio dare il panettone, se mi ne affronto. Non ho capito, andava, va bene così, dai. C'è un amico Natalino. Sì. Adesso mi stava dicendo che, adesso non lo so, questa settimana non lo so, forse per la Prusa devo piazzare il condizionatore, capito? Anda bene, da domenica. Grava, gloria. Aspetta, voglio provare, adesso, scusa un attimo Natalino, che voglio provare lo Switzer adesso come va in quell'altro apparecchio. E prova. E prova a parlare. Guarda, uno, due, tre, prova, vai. Un gioiello, va benissimo. Com'è questa radio? Bella, va bene. E così. C'è un piccolo Natalino. C'è un mio piccolo di modulazione, come schiaccio, che farlo se ne va a fotoscala, l'acqua.